La nuova casa di cura in cui mi ricoverai non mi guarì più della prima. E passarono parecchi anni prima che la lasciassi. Durante il tragitto in ferrovia che feci per tornare finalmente a Parigi, il pensiero dell'assenza in me di qualsiasi dono letterario, assenza che avevo creduto di scoprire un tempo dalla parte di Germain, che avevo riconosciuta con più tristezza ancora durante le passeggiate quotidiane con Gilbert prima di tornare già molto tardi a casa per pranzo a Tansonville, e che prima di lasciare quella casa avevo più o meno identificata, leggendo qualche pagina del Journal des Goncourt, con la vanità, con la menzogna della letteratura. Questo pensiero, forse meno doloroso ma ancora più tetro, se gli davo come oggetto non un'infermità soltanto mia, ma l'inesistenza dell'ideale in cui avevo creduto, questo pensiero, che da molto tempo non mi era più tornato alla mente, mi colpì di nuovo e con una forza più che mai penosa. Fu, me lo ricordo, durante una sosta del treno in aperta campagna. Il sole illuminava fino a metà del tronco una fila d'alberi che fiancheggiava i binari. Alberi, pensai, non avete più niente da dirmi. Il mio cuore, raggelato, non vi sente più. Eppure sono qui, in piena natura. Ebbene? È con freddezza. È con noia che i miei occhi prendono atto della linea che separa la vostra fronte luminosa dall'ombra del vostro tronco. Semmai ho potuto credermi poeta, adesso so di non esserlo. Forse nella nuova parte della mia vita, così disseccata, che sta per cominciare, gli uomini potrebbero ispirarmi ciò che la natura non mi dice più. Ma gli anni in cui sarei forse stato capace di cantarla non torneranno mai. Ma consolandomi così, con l'idea che un'osservazione umana avrebbe potuto prendere il posto di un'ispirazione impossibile, sapevo che stavo solo cercando una consolazione ed ero il primo a sapere che era senza valore. Se avessi avuto veramente un'anima d'artista, che piacere avrei provato davanti a quella cortina d'alberi illuminata dal sole al tramonto, davanti a quei fiori che dalla scarpata arrivavano fin quasi al predellino del vagone e di cui avrei potuto contare i petali, ma il cui colore mi sarei ben guardato dal descrivere, come avrebbero fatto tanti bravi letterati, perché non si può certo sperare di trasmettere al lettore un piacere che non si è provato. Con la stessa indifferenza avevo visto poco dopo le lentiggini arancione e d'oro di cui cospargeva le finestre d'una casa e, infine, inoltratasi l'ora, avevo visto un'altra casa che sembrava costruita in una sostanza d'un rosa alquanto singolare. Ma avevo fatto queste diverse constatazioni con la stessa assoluta indifferenza con cui, passeggiando in un giardino con una signora e avendo visto una foglia di vetro e, un po' più in là, un oggetto d'una materia analoga all'alabastro, il cui colore insolito non m'avesse minimamente sottratto alla più languida noia, tuttavia, per cortesia nei confronti della signora, per dire qualcosa, e anche per mostrare d'aver notato quel colore, avrei indicato di sfuggita il vetro colorato e il pezzetto di stucco. Non diversamente, per sgravio di coscienza, segnalavo a me stesso, come a una persona che mi fosse stata accanto e che avrebbe potuto trarne maggior piacere di me, i riflessi di fuoco nei vetri e la trasparenza rosata della casa. Ma il compagno cui avevo fatto constatare questi effetti singolari era evidentemente di indole meno entusiasta di tante persone ben disposte che si estasiano a simili viste, giacché aveva preso conoscenza di quei colori senza la minima esultanza. La mia lunga assenza da Parigi non aveva impedito ad alcuni vecchi amici di continuare, dato che sulle loro liste c'era ancora il mio nome, a mandarmi assiduamente degli inviti, e quando, tornato a casa, ne trovai, assieme a uno per un rinfresco offerto dalla Bermà in onore di sua figlia e di suo genero, un altro per una matinée che si sarebbe tenuta l'indomani in casa del principe di Germain. Le tristi riflessioni fatte in treno non furono uno dei minori fra i motivi che mi consigliarono d'andarci. «Non vale davvero la pena di privarsi della vita di società», mi ero detto, «visto che per il famoso lavoro, al quale spero da tanto tempo di applicarmi, a partire dal giorno successivo, io non sono fatto, o non lo sono più, ed esso, forse, non corrisponde ad alcuna realtà. Per dire il vero, questa ragione era puramente negativa e si limitava a privare di qualsiasi valore quelle che avrebbero potuto distogliermi da quel concerto mondano. La ragione che mi fece andare fu quel nome, Germain, uscitomi di mente da parecchio tempo, abbastanza per risvegliare in me, quando lo lessi sul biglietto d'invito, un raggio d'attenzione che andò a prelevare in fondo alla mia memoria una sezione del loro passato, con tutte le immagini di foresta demaniale e di alti fiori che l'accompagnavano allora, e per riacquistare ai miei occhi il fascino e il significato di cui lo colmavo a Combray, quando, per rincasare, percorrevo Rue de l'Oiseau e vedevo da fuori, simile a una lacca scura, la vetrata di Gilberto il Malvagio, sire di Germain. Per un momento i Germain mi erano sembrati di nuovo completamente diversi dalle persone di questo mondo, imparagonabili ad esse, ad ogni creatura vivente, fosse anche sovrana. Esseri usciti dalla fecondazione dell'aria agra e ventosa della cupa città di Combray, in cui era trascorsa la mia infanzia, e del passato che vi si coglieva in quella stradina all'altezza della vetrata. Avevo avuto voglia di andare dai Germain, come se questo avesse dovuto riavvicinarmi alla mia infanzia e alla profondità della mia memoria, dove la intravedevo, e avevo continuato a rileggere l'invito, fino a quando, rivoltate, le lettere che componevano quel nome così familiare e così misterioso, al pari di quello stesso di Combray, non ebbero ripreso la loro indipendenza e disegnato davanti ai miei occhi affaticati un nome che, per così dire, non conoscevo. Poiché la mamma andava a un piccolo tè da Madame Sazerat, che sarebbe stato, lo sapeva in anticipo, molto noioso, non ebbi scrupoli ad andare, io, dalla principessa di Germain. Presi una carrozza per raggiungere la dimora del principe di Germain, che non abitava più nel suo vecchio palazzo, ma in uno, magnifico, che si era fatto costruire in Avenue Dubois. Fra i torti delle persone del gran mondo c'è quello di non capire che se vogliono che noi crediamo in loro, dovrebbero innanzitutto crederci loro stessi, o almeno rispettare gli elementi essenziali del nostro credere. Ai tempi in cui credevo, anche se sapevo il contrario, che i Germain abitassero in un determinato palazzo in virtù d'un diritto ereditario, penetrare nel palazzo del mago o della fata, far aprire davanti a me le porte che non cedono finché non si sia pronunciata la formula magica, mi sembrava tanto arduo quanto ottenere un colloquio con il mago o la fata in persona. Era la cosa più facile del mondo far credere a me stesso che il vecchio domestico, assunto la sera prima o fornito da Potel e Chabot, fosse figlio, nipote, discendente di quelli che servivano la famiglia molto prima della rivoluzione, e mettevo un'infinita buona volontà nel chiamare ritratto d'antenato un ritratto comprato il mese precedente da Bernheim Jeune. Ma un fascino non si travasa, i ricordi non si possono suddividere, e del principe di German, ora che aveva provveduto lui stesso a mettere allo scoperto le illusioni della mia fede, andando ad abitare in Avenue du Bois, non rimaneva granché. I soffitti che avevo temuto di veder crollare quando era stato annunciato il mio nome e sotto i quali sarebbe ancora aleggiato, per me, tanto del fascino e dei timori d'un tempo, coprivano le serate di un'americana priva per me di qualsiasi interesse. In sé le cose non hanno naturalmente alcun potere, e poiché siamo noi a conferirglielo, qualche giovane liceale borghese doveva provare in quel momento davanti al palazzo della Avenue du Bois gli stessi miei sentimenti d'una volta davanti al vecchio palazzo del principe di Germain. Il fatto è che era ancora lui nell'età in cui si crede. Mentre io l'avevo superata e avevo perduto quel privilegio, così come dopo la prima infanzia si perde la facoltà che hanno i bambini di dissociare in frazioni digeribili il latte che ingeriscono, il che costringe gli adulti a prendere il latte, per maggior prudenza, in piccole quantità, mentre i bambini possono succhiarlo indefinitamente senza riprender fiato. Il cambiamento di residenza del principe di Germain ebbe almeno questo di buono per me: che la carrozza che era venuta a prendermi per portarmi là e nella quale facevo queste riflessioni dovette attraversare le vie che vanno verso i Champs-Élysées. Erano allora molto mal lastricate, ma non appena ci arrivai fui non di meno sottratto ai miei pensieri da quella sensazione d'estrema dolcezza che si prova quando di colpo la carrozza corre più facilmente, più dolcemente, senza rumore, come quando, spalancatisi i cancelli d'un parco, si scivola lungo i viali coperti di sabbia fine o di foglie morte. Materialmente non era affatto così, ma sentii di colpo la soppressione degli ostacoli esterni, perché in effetti non c'era più per me lo sforzo d'adattamento o d'attenzione che facciamo, magari senza rendercene conto, di fronte alle cose nuove. Le vie per le quali passavo in quel momento erano quelle, da tanto dimenticate, che percorrevo un tempo con Françoise per andare ai Champs-Élysées. Il suolo sapeva da sé dove andare. La sua resistenza era vinta. E come un aviatore che dopo una faticosa rincorsa a terra bruscamente decolla, io mi sollevavo lentamente verso le altezze silenziose del ricordo. Per me quelle vie spiccheranno sempre, fatte di un'altra materia, fra tutte le vie di Parigi. Quando arrivai all'angolo di Rue Royale, dove era un tempo il venditore all'aperto delle fotografie che piacevano a Françoise, mi parve che la carrozza, trascinata da centinaia di vecchie svolte, non avrebbe potuto far altro che svoltare da sé. Non attraversavo le stesse vie percorse quel giorno dalle persone che erano fuori a passeggio, ma un passato sdrucciolevole, triste e dolce. Era fatto d'altronde di passati diversi e tanti che m'era difficile riconoscere la causa della mia malinconia, se fosse legata al mio andare incontro a Gilbert, col timore che lei non venisse, alla vicinanza ad una certa casa dove m'avevano detto che Albertine era stata con André, al significato di vanità filosofica che sembra prendere una strada percorsa mille volte, con una passione che è finita e che non ha portato frutti, come quella dove facevo dopo colazione delle corse così affrettate, così febbrili per guardare ancora tutte fresche di colla la locandina di Phèdre o quella di Domino Noir. Arrivato ai Champs-Élysées, siccome non avevo molta voglia di sentire tutto il concerto offerto dai Germain, feci fermare la carrozza e mi apprestavo a scendere per fare qualche passo a piedi, quando fui colpito dallo spettacolo d'una carrozza che stava fermandosi a sua volta. Un uomo, con gli occhi fissi, tutto curvo, era più posato che seduto sul fondo e faceva per stare dritto gli sforzi che avrebbe fatto un bambino cui si fosse raccomandato di comportarsi bene. Ma il suo cappello di paglia lasciava vedere un'indomita foresta di capelli completamente bianchi. Dal mento gli fluiva una barba bianca, simile a quelle che la neve mette sulle statue dei fiumi nei giardini pubblici. Era accanto a Jupien, che si faceva in quattro per lui, il signor di Charlieu, convalescente d'un attacco apoplettico di cui non avevo saputo nulla. Mi avevano detto soltanto che aveva perso la vista. In verità s'era trattato di disturbi passeggeri e ci vedeva benissimo di nuovo. E che, a meno che prima non si fosse tinto e gli avessero prescritto di non sobbarcarsi più a tale fatica, aveva reso visibile e brillante, come in una sorta di precipitato chimico, tutto il metallo che sprizzavano e di cui erano sature, come fossero geyser, le ciocche di puro argento, ormai, della sua capigliatura e della sua barba, mentre aveva imposto al vecchio principe decaduto la maestà shakespeariana di un re Lear. Gli occhi non erano rimasti estranei a questa convulsione totale, a questa alterazione metallurgica della testa, ma, per un fenomeno inverso, avevano perso tutto il loro fulgore.